Tocca a Paolo da Carrara, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Io sono un tifoso romanista. Sì. Anche se si sta a Carrara, vede, ogni tanto ci sono tutti divisi tra Juve, Milan, Inter, io sono romanista. Sì, ma Marina, guardi, ha appena scritto Marina un bel messaggio che dice: si dovrebbe allora tifare, se non ho capito male, la squadra del luogo di nascita o quello di residenza o quello del domicilio o che altro ancora. Che scemenza, ha commentato per scritto Marina con una formula elegante, in disuso, ma molto elegante e molto piena di significato. Dica Paolo, scusi. No, le volevo chiedere, io sì. Non vede un po' in questa Roma, cioè che siamo in una situazione che si poteva, non dico arrivare al campionato, ma quasi. Non capisco, ecco, questi cali di tensione, ora è come ieri a Livorno. Lei non capisce perché è la stessa cosa che dicevo prima, lei non capisce perché ha sto viziaccio di non vincere sempre, in altre parole, no? No, vabbè, quello c'ha ragione, faccio per dire, butta dentro il rigore del 4-2 è fatta, cioè c'hai anche la possibilità di avere l'Inter in casa, no? Ma l'avrà fatto apposta, secondo lei, Pizzarro, a metterla sul palo? Quello no. E allora? No, sono rimasto male perché io un po' ci credevo a questo campionato, perché non lo so, io son convinto che se l'Inter, e glielo auguro che vada fuori dalla Coppa, anche per Mourinho, sì, no, e gli faccio tanti auguri che vada fuori dalla Coppa, secondo me si squagliano, vede Balotelli, Casini. Vabbè Paolo, dopo questo intervento augurale io credo che per oggi possiamo chiuderla qui.